in primo piano. Buona giornata e buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo come i fatti della giornata di ieri vengono raccontati sui giornali di questa mattina. Ovviamente le questioni politiche e il voto sulla legge di stabilità, che faticosamente si avvicina alla sua forma definitiva, occupano grande spazio su tutte le prime pagine. Cominciamo da Repubblica, che sceglie di parlare delle tensioni interne al Partito Democratico. PD, tensione sulle riforme, Renzi alla minoranza, da voi pretendo lealtà. E poi la frase di Civati che minaccia di andarsene, riferisce Repubblica: se si vota a marzo non ci sarò. Oggi la resa dei conti in assemblea, su questa assemblea del Partito Democratico naturalmente molti giornali scelgono di puntare decisamente nella prima pagina. E poi la manovra, la legge di stabilità, tasse, la frenata del governo, niente rincari su casa e Rai, nessun aumento delle tasse sulla casa, l'avete ascoltato anche nel corso del giornale radio precedente, congelato anche il canone Rai per il 2015, quindi non ci saranno rincari. Sono oltre 60 gli emendamenti che il governo ha presentato ieri alla legge di stabilità. E poi la partita con le regioni, 1 miliardo per allentare il patto di stabilità interno e via libera del presidente della conferenza delle regioni Chiamparino. Dalla Repubblica passiamo alla Stampa, che proprio di manovra sceglie di occuparsi nel suo titolo principale. Manovra, aumenti congelati, il governo frena su casa e canone Rai, ma in 2 comuni su 3 le aliquote saliranno. Torneremo su questo punto. Gli aumenti per IMU e TASI, tra l'altro tasse attualissime, prelievi attualissimi, perché proprio entro martedì, come sapete, va versato il saldo. Non ci saranno aumenti nel senso di sblocco complessivo della aliquota massima, della percentuale massima di prelievo, ma in realtà, poiché alcuni comuni non hanno ancora raggiunto il tetto massimo loro consentito, gli aumenti ci potranno essere all'interno appunto di questo tetto fissato a livello nazionale. E allora questo è il senso della decisione presa ieri all'interno della legge di stabilità. Il governo che frena su casa e canone Rai, in 2 comuni su 3, appunto, ricorda la Stampa in prima pagina, le aliquote saliranno. E poi le questioni interne al Partito Democratico, Civati a Renzi, nuovo partito se il Partito Democratico non cambia, e sulle riforme è caos in commissione. Tra l'altro oggi la Stampa propone anche un sondaggio che ci segnala come il gradimento nei confronti del Presidente del Consiglio è in calo, ma dopo 300 giorni comunque resta un gradimento record. Alle pagine interne si spiega poi appunto che il livello di fiducia messo a confronto dal governo Prodi, quindi stiamo parlando del 2006, per arrivare via via, passando per il governo Berlusconi, quello guidato da Mario Monti, poi quello di Enrico Letta, ebbene, dopo 10 mesi di governo, il governo attualmente in carica è quello che ottiene il gradimento più elevato da parte degli elettori in questo tipo di sondaggi. Il governo Renzi appunto sta al 51% di gradimento, gli altri governi il migliore in questo senso, cioè quello che ha ottenuto il punteggio più alto, era il governo precedente, il governo guidato da Letta nel 2013, era al 45%. Questo, come vi dicevo, sulla Stampa, che tra l'altro ricorda come il Matteo Renzi abbia registrato il massimo livello di fiducia un mese dopo le europee, stava addirittura al 70%, che è un livello molto alto, diciamo, nel meccanismo di fiducia, di gradimento degli elettori nei confronti dei governi. Ancora sulla Stampa il petrolio, molti giornali parlano di petrolio questa mattina, chi segue il Sole 24 Ore, Radio 24, sa bene che sul petrolio ci sono dei ribassi molto consistenti, ne parliamo quotidianamente. Ecco, oggi anche su altri giornali si torna su questo fenomeno del calo del petrolio, un calo che è dovuto a diversi fattori e che però, lo diciamo subito, non si sta traducendo in riduzioni del prezzo che noi paghiamo poi alla pompa per i carburanti, ma questo soprattutto lo spiega bene tra l'altro oggi Avvenire, soprattutto per effetto del continuo e costante aumento delle imposte, delle accise si chiamano in questo caso, delle imposte che gravano appunto su questi carburanti. Restiamo ancora sulla stampa che ci segnala sempre in materia di politici e gradimento l'alto seguito di Salvini, di Matteo Salvini, segretario della Lega, sui social network, sinergie web TV, interazioni con i fan, il leader del Carroccio, spiega la stampa, batte anche Grillo, Beppe Grillo, che appunto ha fatto del web e della presenza sul web la parte determinante della sua avanzata dal punto di vista politico. Il Messaggero, come già anche la stampa, punta su casa e canone Rai, casa e canone Rai stop agli aumenti, le modifiche alla manovra nel 2015 resteranno invariate, IMU e TASI, congelata l'imposta sulla TV, in riferimento appunto al canone Rai. E poi IRAP, sgravi per autonomi e piccole imprese. Su questo punto, cioè sulle correzioni all'imposta regionale per le attività produttive, torneremo poi quando vi presenterò i titoli del Sole 24 Ore, che oggi naturalmente dedica ampio spazio a queste modifiche della manovra, segnalando però come siano molto ridotte rispetto alle premesse e alle aspettative iniziali gli interventi, le misure di modifica per quanto riguarda proprio il lavoro e le attività economiche in genere. 20 di scissione, resa dei conti nel PD, si regge sempre sul Messaggero. E poi la frase di Renzi di ieri, il premier: esigo lealtà, non obbedienza. Mafia Capitale, l'inchiesta che tiene banco in queste settimane su tutti i giornali, su tutte le televisioni e le radio. Mafia a Roma e immigrazione, così la gang pressava i prefetti, la rete di Odeven per lucrare sull'emergenza sbarchi. Questo è il titolo con cui il Messaggero annuncia i suoi servizi. Ovviamente il quotidiano romano è particolarmente sensibile ai temi appunto di Mafia Capitale. Passiamo al Secolo XIX, che invece decide di dare spazio alle tensioni interne al partito di maggioranza, riforme, resa dei conti nel Partito Democratico, la minoranza del Partito Democratico sfida il premier in commissione, e poi la frase di Civati: se si vota noi da soli, la frase, come avete sentito, è un pochino più articolata, però il senso è indubbiamente questo: se non cambia la direzione in qualche modo finora tenuta da Renzi, Civati è pronto a distaccarsi dal partito. E poi naturalmente non poteva mancare sul Secolo XIX quotidiano di Genova una citazione per Genoa e Sampdoria, che oggi affrontano appunto Roma e Juventus alla rivoluzione con Genoa e Samp, è un titolo che ricorda i match di oggi. Ancora Mafia Capitale, anche sul Secolo XIX, perché un resoconto di Marco Grasso ci informa: Genova, così Mafia Capitale cercò di mettere le mani sul porto. Pensano in grande i fascio mafiosi di Massimo Carminati, si legge in prima pagina sul Secolo XIX, ottavo re, tra virgolette, di Roma, che comanda un clan di vecchi camerati e reduci della banda della Magliana. Dopo essersi presi la capitale, vogliono l'Italia, aspirano a diventare broker nazionali del narcotraffico, a trattare da pari con i calabresi e i siciliani. Questo grande sogno, si legge sempre sul Secolo XIX, passa attraverso un progetto imprenditoriale: trasformare il porto di Genova nel hub, quindi nel centro di smistamento, di arrivo e smistamento del traffico di cocaina. E poi la vicenda come viene raccontata, sia con questo lungo richiamo in prima pagina, sia con l'articolo nelle pagine interne del Secolo XIX. Passiamo al Libero, che pure tiene in grande evidenza Mafia Capitale, così come fa anche il Giornale. Naturalmente la linea editoriale delle due testate è anche alla base di questa scelta. Mafia Capitale per Libero, altri soldi a Coop e Arci, dopo Mafia Capitale è il sommario, quindi mescolando le due notizie di ieri: da una parte le ultime ulteriori indiscrezioni sulla inchiesta Mafia Capitale e anche le modifiche alla legge di stabilità. E poi il governo aumenta dell'80% i fondi per il servizio civile, ma anziché alzare la voce contro il malaffare, non era meglio chiudere i rubinetti del denaro pubblico? Si chiede polemicamente Libero in prima pagina, che poi ricorda anche che c'è lo stop al maxi aumento, al temuto maxi aumento per le imposte sulla casa. Il giornale più direttamente su Mafia Capitale, Marino, il sindaco di Roma, Marino sapeva e ha taciuto, una relazione al tesoro lo smaschera, scrive il giornale, era al corrente delle irregolarità sugli appalti del comune alle cooperative. Intercettazioni di Buzzi macchiano la vittoria del sindaco alle primarie, mi cercano. Poi ieri Salvini ha rilanciato l'ipotesi di una flat tax, cioè di una aliquota fissa al 15% per le imposte, e secondo il giornale in prima pagina l'intesa tra Berlusconi e la Lega riparte proprio da questo, riparte dall'aliquota unica, così il giornale. Avvenire dà spazio alla manovra, casa stop agli aumenti ma sempre più azzardo, nella stabilità una sanatoria da 500 milioni per i centri scommesse non autorizzati e a carico del settore un contributo, si legge tra virgolette, un contributo da 730 milioni. Il Corriere della Sera, per chiudere prima di ascoltare le previsioni del tempo per questa giornata, decide di dare il suo titolo principale al fisco, la carica delle tasse di fine anno, IMU e TASI da pagare entro martedì. A dicembre il fisco prevede 200 adempimenti. Le questioni degli obblighi fiscali si mescolano con quella della legge di stabilità, le modifiche alla legge di stabilità, perché nello stesso titolo leggiamo anche il governo congela gli aumenti sulla casa nel 2015, nessun rincaro per il canone RAI. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa. Come vedevamo nella prima parte, come vi dicevo nella prima parte, le modifiche alla legge di stabilità occupano grande spazio sulle prime pagine un po' di tutti i giornali. Allora entriamo con il Sole 24 Ore di questa mattina un po' più nei dettagli di quello che è stato deciso, deciso per il momento, perché naturalmente non c'è stato ancora il voto definitivo. Sono gli emendamenti, cioè le richieste di correzione presentate dal governo alla legge di stabilità. Congelata la local tax, scrive il Sole 24 Ore, IMU, TASI anche nel 2015, questo è il titolo principale. E poi solo mini ritocchi alla patrimoniale sui macchinari, cioè l'imposta che si paga sui macchinari cosiddetti imbullonati, che vengono trattati come fossero degli edifici. La local tax, per chi, come dire, si fosse distratto o non si fosse particolarmente appassionato al dibattito delle ultime settimane, era, a questo punto dobbiamo usare l'imperfetto, era l'ipotesi di superamento delle attuali IMU e TASI che chiedono il saldo, ci chiedono il saldo entro martedì prossimo, 16 dicembre, per evitare le difficoltà con cui ci siamo scontrati in questo anno nel pagare, soprattutto nel calcolare correttamente le due imposte, si era pensato a una tassa unica locale, appunto da qui il termine di local tax. Però per il 2015 non se ne fa nulla, questo conferma anche il Sole 24 Ore, che già aveva anticipato le difficoltà in questo progetto di revisione dell'IMU e della TASI, quindi anche nel 2015 pagheremo IMU e TASI. Scrive Gianni Trovati a pagina 3 oggi del Sole 24 Ore: l'imposta municipale e la tassa si applicheranno anche nel 2015, ma c'è un tetto appunto al prelievo sulla prima casa. Il problema, perché avremmo avuto bisogno di una local tax? Perché, come scrive Trovati, questo intervento mirava anche a restituire progressività alla tassazione, perché rispetto alla vecchia IMU, la TASI ha colpito le case più piccole e ha accordato sconti importanti a quelle di maggior valore fiscale, quindi una sorta di prelievo che funziona in un modo abbastanza iniquo, cioè chi ha di più paga di meno. Rinviarla, quindi rinviare il riordino e la local tax, significa riaprire le porte all'accoppiata IMU-TASI e in particolare al tributo sui servizi indivisibili per l'abitazione principale, cioè per la TASI. commento. L'analisi del tema è affidata oggi a Jean-Marie Delbos, che ci parla di 10 anni consumati senza trovare vie d'uscita. 10 anni perché appunto dal tentativo di superamento per la l'ICI, allora, pardon, sulla prima casa, ogni tanto con queste sigle ci si perde un po', ecco, si è arrivati a questo accrocchio, detto molto serenamente, tra IMU e TASI. Adesso si andrà avanti per un altro anno in questo modo, ma con l'indicazione della legge di stabilità che annuncia non ci saranno aumenti eccessivi di aliquote. In realtà gli aumenti appunto ci saranno lo stesso, perché diversi comuni non hanno ancora raggiunto il massimo loro attualmente consentito e quindi potranno ulteriormente innalzare le percentuali. Non si andrà oltre la percentuale massima che è stata già fissata per il 2014. E restiamo ancora un istante sulle modifiche alla legge di stabilità. Trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore di oggi una serie di indicazioni, articoli e schede a firma di Marco Rugari, di Giovanni Negri, di Roberto Turno, che spiegano le modifiche presentate dal governo per la legge di stabilità. Vi cito appunto l'IMU dei macchinari, cioè gli imbullonati, che dovevano avere una sorta di esclusione. In realtà l'esclusione è molto meno forte, molto meno cospicua di quello che ci si aspettava. E poi una cosa importante dal punto di vista fiscale: in caso di ravvedimento, cioè di adesione, correzione a dichiarazioni fiscali contestate dall'agenzia, ecco, lo sconto che attualmente viene attribuito al contribuente diventerà meno consistente. Lo spiega Antonio Iori, ravvedimento più costoso a verbale già consegnato, e questo sul Sole 24 Ore di oggi. Ma ancora sul Sole 24 Ore due segnalazioni. Pensioni, rivalutazioni con taglio. Come sapete, si è fatto molto parlare in queste settimane della possibile addirittura riduzione delle pensioni per il 2015, perché essendo collegate all'andamento del prodotto interno lordo ed essendo purtroppo il prodotto interno lordo in territorio negativo, ebbene, si temeva una riduzione anche delle pensioni. Non sarà così, ma non ci sarà un aumento particolarmente generoso: 6,50 euro per chi ha la minima, e diminuzioni per gli assegni oltre 3.000 euro. È una di quelle notizie che il nostro amico Alessandro Milan annuncerebbe con il suo abituale refren: mani sul volante. Ecco, mani sul volante per Matteo Prioschi e Fabio Venanzi, che ci spiegano come l'aumento della rivalutazione delle pensioni sarà effettivamente molto ridotta, anche perché l'INPS procederà a un recupero di versamenti, di pagamenti effettuati in eccesso, diciamo così, perché in realtà si tratta comunque di cifre intorno a qualche euro, però sono cifre che poi, moltiplicate naturalmente per il numero dei pensionati, hanno una importanza tutt'altro che relativa. Allora, tutto il dettaglio delle rivalutazioni, che sono davvero al lumicino per il 2015, a pagina 5 oggi del Sole 24 Ore. E resto ancora un istante sul nostro quotidiano, perché vi segnalo il tema dell'anticorruzione, delle misure anticorruzione annunciate dal governo venerdì, quando appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di riforme, di misure di riforma proprio per in chiave anticorruzione dopo lo scandalo di Mafia Capitale. Ecco, però queste misure, come ricorda tra l'altro anche in un feroce editoriale questa mattina Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio parla di metodo supercazzola, cioè il metodo, insomma, di fare un annuncio a cui poi però non seguono fatti concreti. Queste misure sono appunto proposte come correzioni a un disegno di legge, e allora, detto in italiano brutale, non è ancora successo nulla, cioè si sta discutendo, le Camere stanno discutendo un intervento in materia di anticorruzione. Questo intervento sarà ulteriormente ampliato alle misure che ha proposto il governo. Però, come scrive Giovanni Negri, si tratta di un avvio in salita per queste nuove misure, perché La scelta del governo di non approvare un diverso disegno di legge rischia di allungare in realtà i tempi di approvazione di quel che già si sta discutendo. E infatti, ci ricorda Giovanni Negri, il Consiglio dei Ministri ha scelto di innestare la stretta sulla corruzione nel corpo del disegno di legge con le misure sul processo penale, che ha già ricevuto il via libera del governo nella riunione del 29 agosto. Quindi il 29 agosto sono state varate delle misure di correzione al processo penale, sono state, presentate dal governo in un disegno di legge, sono in discussione attualmente in Parlamento, ma ci avvisa Giovanni Negri, da allora però il provvedimento si è inabissato tra bollinature e possibili incardinamenti. Sta di fatto che in Parlamento il provvedimento sul processo penale, quindi quello dove dovrebbero confluire le misure nuove anticorruzione, bene, in Parlamento questo disegno di legge non è mai approdato. E allora quest'ultimo elemento ha fatto preferire questo strumento rispetto a un disegno di legge apposito, quindi di ridare slancio, di ridare una spinta a quelle misure che sono state appunto decise e discusse dal Consiglio dei Ministri, annunciate per il Parlamento, ma poi il Parlamento non ha ancora nemmeno cominciato a discuterle. Su questo che non è ancora cominciato, di cui la discussione è ancora cominciata, ebbene si innesteranno le nuove procedure. Spero di essere stato chiaro, la materia, devo dire, potrebbe risultare ostica e appunto, come polemicamente scrive Travaglio, in realtà appunto al primo nuovo scandalo fatto negativo la maggioranza ripesca quel che resta dell'aeroplanino. È un aeroplanino che è appunto il DDL che viene lanciato dal governo come un aeroplanino di carta nell'oceano delle aule parlamentari, e al primo nuovo scandalo la maggioranza ripesca quel che resta dell'aeroplanino, annuncia che il DDL è in discussione, verrà presto approvato, anzi adesso subito, i giornali riannunciano è fatta, intanto il Parlamento ha altro da fare, e così via. Molto polemicamente Travaglio sulla stessa materia, appunto le misure anticorruzione che sono state discusse dal Consiglio dei Ministri e che andranno a confluire in questo disegno di legge, così raccontate appunto nello specifico da Giovanni Negri sul Sole 24 Ore, commentate polemicamente dall'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. In primo piano. E ancora buona domenica da Mauro Meazza, bentornati alla nostra rassegna stampa questa mattina in onda grazie al contributo di Filippo Aureggi dall'altra parte del vetro. Due passi ancora nella legge di stabilità, o almeno nella sua versione uscita annunciata dagli emendamenti, dalle richieste di correzione presentate dal governo. Due passi perché ci restiamo sopra con Avvenire, casa stoppa gli aumenti ma è sempre più azzardo. Su Avvenire però, e mi piace citarlo ora che abbiamo appena ascoltato le condizioni della viabilità, si parla anche di petrolio. Vi dicevo oggi sui giornali, su diversi giornali, si parla di petrolio, di questo calo brusco e importante dei prezzi al barile, e Pietro Saccò ci spiega perché l'accanimento fiscale sui carburanti, questo è il suo titolo, si mangia i risparmi al distributore. Dal 2011, riferisce appunto Saccò su Avvenire, le accise su benzina e gasolio sono aumentate di quasi 20 centesimi al litro, con il risultato che oggi fare il pieno costa ancora di più di quando il barile stava al livello record di $150. Ebbene, appunto, nella ricostruzione, nel luglio del 2008 la quotazione del petrolio era a $147 al barile, eppure fare il pieno allora costava meno di quello che costa ora. Da allora, cioè dal luglio del 2008 a oggi, tutta una serie di rincari decisa dai vari governi, quindi una cosa assolutamente bipartisan o bipartisan, come preferite, ecco, tutte queste misure di ritocchi alle accise per finanziare diverse emergenze, tra cui anche le necessità per il terremoto piuttosto che l'intervento, il sostegno all'intervento in Libia, ebbene tutte queste misure sono andate a gonfiare il prelievo fiscale, con il risultato che anche la riduzione della materia prima non ha di fatto un effetto, non è visibile per noi che facciamo il pieno. Questo, ve lo ripeto, Pietro Saccò su Avvenire ci fa il resoconto delle varie misure che appunto impediscono in qualche modo di beneficiare del calo del petrolio. Resto ancora sulla legge di stabilità perché alcuni giornali segnalano anche con appositi, con specifici titoli, l'aumento che si annuncia per l'IVA sui pellet. I pellet, questo particolare carburante di recupero che viene utilizzato per il riscaldamento, nelle varie correzioni alla legge di stabilità si annuncia anche appunto un ritocco dell'IVA, dell'imposta sul valore aggiunto, dal 10 al 22%. Quindi si passa dall'aliquota intermedia a quella ordinaria per il pellet. Il giornale titola: congelato per un anno l'aumento di IMU e TASI, ma è stangata sulle stufe. E Antonio Signorini nota come le tasse seguano i soldi, se i contribuenti individuano un settore dove rifugiarsi per risparmiare, non solo sul fisco, il legislatore prima lo individua, poi lo colpisce senza pietà con un aumento di aliquota. Una tradizione italiana consolidata, basti pensare all'imposizione sul mattone, aumentata man mano che è cresciuto l'amore degli italiani per gli immobili, oppure a quella sui risparmi e fondi pensione. L'ultimo capitoletto, riferisce Signorini, riguarda il riscaldamento. Un emendamento del governo alla legge di stabilità, presentato ieri al Senato, porta dal 10 al 22% l'IVA sui pellet, i cilindretti in segatura compressa che fanno funzionare stufe e caminetti ecologici. Ebbene, per il fisco non saranno più assimilati alla legna da ardere, quindi 10% di aliquota IVA, ma a un idrocarburo. Erano entrate previste circa 96 milioni di euro che serviranno a garantire alcune agevolazioni fiscali sul gasolio. Speriamo questa volta di accorgercene delle agevolazioni fiscali, e voglio dire di accorgercene anche quando andiamo al distributore. E poi torniamo sulle società partecipate. Non so quanti degli ascoltatori ricordano il gran parlare che si è fatto quando appunto avevamo questo commissario a spending review, Cottarelli. Si era segnalato più e più volte come le società partecipate dagli enti locali, dalle autonomie, per fornire servizi come possono essere la raccolta della nettezza urbana o la distribuzione dell'acqua potabile, ebbene si era segnalato come spesso queste società partecipate nascondano, forse sarebbe meglio dire, anche dei casi di malaffare. Ci ritorna, tra gli altri, perché anche altri giornali hanno la stessa segnalazione, il giornale, ecco le società partecipate dai parenti. Acqua, rifiuti, trasporti, in tutta Italia esiste un universo di aziende a partecipazione pubblica dove si scambiano favori. Paolo Braccalini e Maria Teresa Conti vanno un po' qua e là tra le varie partecipate, segnalano appunto delle società partecipate in cui loro, i parenti, partecipano, e come se partecipano i familiari. È più facile imbucarli lì in qualche società partecipata dove l'omonimia magari si nota meno, e infatti la tentazione si trasforma volentieri in prassi. Il caso da manuale va cercato a Roma, nella AMA, società dei rifiuti, di quel Franco Panzironi arrestato nella retata di Mafia Capitale. Lo scorso Natale, mentre Roma trabocca di spazzatura, l'AMA, che ha 7.800 dipendenti, chiama 8 persone per un bel contrattino di assunzione, tra di loro il cognato di Panzironi, oltre a 3 raccomandati da un sindacalista. Ma non è da meno l'altro carrozzone romano, l'ATAC, peggiore società partecipata d'Italia, dove hanno trovato un posto di lavoro, e indaga la procura, una incredibile pattuglia di parenti. Nell'ordine: nipote, nuora, marito della figlia, pure la segretaria dell'ex amministratore delegato, e poi le mogli, quella di un assessore, quella di un deputato, quella di un segretario regionale, sindacale, che già che c'era ha piazzato pure la figlia. Finiamo qui con AMA e ATAC, scrivono Braccalini e Conti, solo per ragioni di spazio. Poi passano ad altre partecipate, vengono citate appunto come cattivi esempi di partecipazioni di parenti, l'Acquedotto Lucano, la ACTV di Venezia, la società che gestisce i vaporetti, Publi Ambiente e anche Sicilia e Servizi, Napoli Servizi SPA. Quindi diciamo un giro in questo tipo di sprechi sulle partecipate che erano già state messe all'indice dai dossier, dalle ricerche di Cottarelli, però sulle quali insomma al momento non sono previste particolari misure. Così come dovremo aspettare ancora un po' per vedere il piano della buona scuola, ce lo ricorda il Corriere della Sera oggi, la buona scuola rimandata a febbraio, poche le risposte ai questionari in rete, Renzi ora chiede suggerimenti a 1000 rappresentanti del settore. Dice: se non è una missione di colpevolezza, poco ci manca. Il Presidente del Consiglio interviene alla giornata dedicata dal Partito Democratico alle buone pratiche della scuola e la prima cosa che fa è scusarsi. Così Valentina Santarpia sul Corriere della Sera di oggi. Non sono riuscito, ha detto Renzi, a raccontare come questa riforma sia la ragione di speranza del nostro paese, come si giochi qui la scommessa del futuro dell'Italia, che quanto la qualità degli studenti e degli insegnanti italiani regga il confronto con l'Europa e con il mondo. E quindi, chiuso il virgolettato di Matteo Renzi, la riforma deve ancora aspettare almeno fino al 22 febbraio 2015, quando, in occasione del primo anniversario del governo, il Premier incontrerà 1000 rappresentanti del mondo scolastico che avvertano questa battaglia come una battaglia propria. Così il riferimento appunto del Corriere della Sera alla buona scuola. E chiudiamo naturalmente con una segnalazione di tipo calcistico e sportivo dalla Gazzetta dello Sport. Samp, Genoa e Napoli, le bestie nere. Juve, Roma, Milan, i bianconeri alle 12:30 incontrano i doriani, contro i quali hanno il peggior bilancio nelle ultime due stagioni. Morata dal primo minuto, si chiede la Gazzetta. Roma, i giallorossi a Marassi, dove hanno perso 5 delle ultime 6 sfide. Garcia dice: occorre voltare pagina. Bene, staremo a vedere, staremo anche a sentire. Buon ascolto e buona domenica con Radio 24.